Ginocchia. Khana Badosh. Spalle. Banjara. Dita. Khana Badosh. A. Piedi. Banjara. Io sono nomade, ci tengo alla mia casa. Non mi posso fermare, la devo confinare. Altoparlante, non vincolante. No.